a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuova puntata per quanto riguarda Regola d'Arte, un saluto da Francesco Galante. Come ogni settimana andiamo a conoscere qualche cosa che riguarda il mondo dell'UPA, dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Oggi ho con me al telefono Stefano Rampazzo, padovano riconfermato alla guida delle imprese di pulizia di Confartigianato Nazionale. Intanto benvenuto Stefano. Grazie signor Galante e un saluto anche da parte mia a tutti i radioascoltatori. Allora, è stato riconfermato come presidente di Confartigianato Imprese di Pulizia da poco, vero? Sì, esatto, martedì abbiamo avuto l'assemblea elettiva e per acclamazione, questa è una grossa soddisfazione da parte mia, sono stato riconfermato presidente nazionale del settore delle imprese di pulizia, esatto. Una gratificazione, diciamo così, anche per un lavoro svolto nel precedente mandato, in quanto attraverso un lungo percorso di contrattazione siamo riusciti a portare a casa il contratto nazionale di categoria. Credo che non sia una cosa facile. No, assolutamente, anche perché la controparte, naturalmente i sindacati con i quali diciamo andiamo abbastanza d'accordo, però naturalmente loro devono fare la loro parte, che poi fortunatamente si sono resi conto che il personale, i nostri dipendenti alla fine sono le nostre risorse principali. Sì, perché poi nelle imprese di pulizia insomma è fondamentale che la manovalanza, la chiamo così, anche se esatto, poi sotto c'è molta professionalità. Proprio a proposito di professionalità, parliamo di un bel progetto che avete pensato, si chiama Impresa Affidabile. Esatto, Impresa Affidabile. L'idea era proprio quella di diversificarci rispetto, diciamo così, agli altri colleghi come UPA Padova, e quindi abbiamo studiato questo marchio, che più che un marchio è una certificazione, naturalmente controllata ad un ente esterno, il CSQA in questo caso, dove attraverso una carta dei servizi noi vogliamo regolamentare, tra virgolette, un po' la categoria e quindi dare più garanzia ai nostri clienti, ai nostri potenziali clienti, al nostro mercato. Ecco, in questo senso, quali sono i punti di forza di questo progetto? Ma i punti di forza sono proprio, come dicevo un attimo fa, la regolamentazione generale, quindi prima di tutto avere sempre il personale formato, informato, essere diciamo così in regola per quello che riguarda soprattutto la sicurezza, un aspetto molto ma molto sentito e molto molto importante in questo periodo, e quindi dare quelle garanzie al cliente in modo che lui vada tranquillo con un servizio, perché noi diamo tendenzialmente un servizio, con un servizio che sia proprio completo per quello che riguarda appunto la regolamentazione e successivamente anche per quello che riguarda la qualità del servizio stesso, quindi con personale, come dicevo prima, formato per quello che riguarda, diciamo così, la possibilità di utilizzare certi tipi di macchinari, certi tipi di prodotti, e informato naturalmente per quello che riguarda tutta la legislazione inerente, insomma. Una osservazione quella che ha fatto lei sulla sicurezza, infatti penso per esempio a le famose riunioni di condominio dove si dice ma le scale ce le puliamo per conto nostro. Bravo. E dopo succede che magari qualcuno si fa male. Bravissimo, è questo che noi vorremmo, diciamo così, far sì che non accada, perché poi alla fine sì, si risparmia, però poi se succede qualcosa sono problemi per il condominio e sono problemi spiacevoli un po' per tutti, diciamo così, nel caso del condominio, ecco. Quindi per quello noi con questa carta dei servizi regolamentiamo maggiormente un po' tutto il settore, tutta la categoria, tutelando prima di tutto i nostri collaboratori, i nostri dipendenti, e tutelando naturalmente anche i nostri clienti. Quindi dando un ottimo servizio. Beh, un bel progetto. Proprio in riferimento al progetto di Impresa Affidabile, segnaliamo anche un'altra bella novità. Nasce CQ, il marchio della casa di qualità. Esatto, casa di qualità. Perché? Perché allora, in uno studio svolto all'interno di UPA, ci si è accorti l'ammontare dei metri cubi di abitazione che sono stati costruiti in questi ultimi anni. Quindi ci si voleva orientare più su un discorso di ristrutturazione, quindi di rielevare, diciamo così, la qualità della costruzione come ristrutturazione, quindi risistemare un po' quello che è già costruito. E quindi questo marchio CQ, attraverso la filiera completa che fa parte del sistema casa, quindi gli edili, gli impiantisti e quindi anche noi delle imprese di pulizie, perché poi alla fine, se alla fine di un lavoro, bene o male la pulizia bisogna farla, insomma, ecco. Certo. Si è pensato appunto di creare questa situazione, questo marchio all'interno del quale tutta la filiera dell'edilizia si può identificare, per poter offrire al mercato sempre un'opportunità di garanzia di qualità negli interventi che il mercato sicuramente è in grado di percepire come a suo vantaggio. Immaginiamo un privato che debba rimettere a posto e restaurare la propria abitazione, deve cercare questo CQ, questo casa di qualità e eventualmente insomma quell'artigiano che ne è già in possesso o che ne entrerà in possesso, perché per avere il marchio di qualità CQ bisogna sottostare a determinate cose, no? Sì, anche qui, come si diceva prima, imprese affidabili, anche qui ci sono tutta una serie di requisiti che l'artigiano marchiato, tra virgolette, con il marchio CQ deve avere, e li ha attraverso, diciamo così, una certa esperienza di anzianità lavorativa, attraverso certi lavori di pregio che sono stati fatti, attraverso dei piani formativi che vengono da Lupa stessa organizzati, in modo tale che, sommando tutti questi requisiti che lui acquisisce attraverso queste cose che ho appena spiegato, riesce ad avere effettivamente questo marchio di qualità. E lo ripeto nuovamente, per maggior garanzia del mercato, del cliente che eventualmente vuole ristrutturare. Questa è una bella cosa che abbiamo raccontato, il marchio CQ, casa di qualità. Proprio di questo torneremo a parlare tra poco, dopo una canzone. Well, it's too late for a sorrow, for a sorrow. Well, it's too late. Tomorrow just can't wait. a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con l'appuntamento di A Regola d'Arte insieme all'Unione Provinciale Artigiani di Padova, abbiamo con noi al telefono Stefano Rampazzo, presidente delle imprese di pulizia di Confartigianato Nazionale. Stavamo parlando, signor Stefano, del marchio Casa di Qualità, questo CQ, questo marchio che ogni artigiano insomma cercherà di entrarne in possesso per far capire a chi poi si rivolge a lui di essere un artigiano che fa le cose per bene, mi viene da dire così. Sì, diciamo così, a regola d'arte. A regola d'arte, come è il titolo della nostra trasmissione. Esatto. Proprio per formare le persone e gli artigiani è stato pensato un secondo appuntamento, è un workshop organizzato dall'Unione Provinciale Artigiani, dalla CNA e Casa Artigiani, grazie al contributo di EVAV, nell'ambito del progetto EPC ed ESCO, nuovi modelli contrattuali e commerciali, e fa parte del percorso Abitare di Qualità. Assolutamente, è un workshop che verrà diciamo così svolto il 23 novembre presso il centro congressi di Villa Ottoboni a Padova, con inizio alle ore 18. Vabbè, il titolo è proprio questo: nuovi strumenti e strategie per la riqualificazione energetica della città. Allora, tutti noi sappiamo benissimo quanto si parla di energia in questi ultimi anni, quanto si parla di green economy, eccetera, eccetera. Quindi, come UPA ci stiamo interessando, e come marchio CQ naturalmente ci stiamo interessando alla questa riqualificazione energetica della città, in questo caso, ma delle costruzioni che sono già esistenti. C'è in diciamo così in discussione, ma tra virgolette in discussione positiva, il contratto, il cosiddetto contratto di rendimento, cioè attraverso degli studi specifici si può capire esattamente un'abitazione che tipo di rendimento energetico può avere, se le cosiddette classi A, B e C, sì, come nelle, negli elettrodomestici, no? In modo tale da poter intervenire, quindi creare meno dispersione e quindi creare anche meno consumo di energia. Questo evento, che ricordo nuovamente è il 23 novembre alle 18 al centro congressi di Villa Ottoboni a Padova, permetterà di acquisire 3 crediti formativi per chi aderisce proprio al marchio CQ Casa di Qualità, e l'evento è a ingresso gratuito, però la registrazione obbligatoria si può fare attraverso l'UPA. Esatto, esatto. Queste sono le possibilità che naturalmente il marchio CQ e l'Unione Provinciale di Artigiani di Padova dà a questi artigiani che hanno tutto l'interesse di entrare a far parte appunto sia dell'associazione e che del marchio CQ, in quanto queste nuove strategie, chiamiamole così, l'intendimento è quello che ci permettano di entrare con maggiore qualificazione, con maggiore, diciamo così, possibilità nel mercato molto difficile attuale, che è quello dell'edilizia. Grazie quindi a Stefano Rampazzo, presidente delle imprese di pulizia di Confartigianato Nazionale, per averci raccontato queste interessanti iniziative dell'UPA. Grazie a voi e un saluto ancora a tutti i radioascoltatori. Chiudiamo come sempre l'appuntamento di A Regola d'Arte con una segnalazione di un servizio dell'UPA per la gestione contabile e amministrativa della tua azienda. In uno scenario in continuo cambiamento, le aziende hanno bisogno di consulenza specializzata. Per questo l'UPA offre ai suoi associati un servizio personalizzato di consulenze tributarie, contabili, amministrative, che tenga conto delle specifiche esigenze di ogni impresa, delle dimensioni aziendali e della tipologia di attività. A disposizione delle aziende consulenze specifiche in materia tributaria, di contabilità, di valutazioni di bilancio e di operazioni straordinarie tramite appuntamenti presso la sede provinciale dell'Unione Artigiani di Padova, presso la sede mandamentale di riferimento, presso la propria azienda. Le consulenze tributarie, contabili e amministrative che sono offerte agli associati sono: tenuta della contabilità, registri e libri contabili, assistenza alle operazioni di acquisto e vendita in Italia e all'estero, analisi di bilancio, programmazione fiscale e consulenza per le decisioni di impresa, assistenza e atti societari e di imprese familiari, dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e tributi locali, formulari diretti all'amministrazione,